capiamo adesso il mistero dell'uranio impoverito. Se, data l'efficienza di questo metodo, io non ho bisogno di arricchire l'uranio che adopero, perché se il meccanismo di fissione dipende dall'urto di un proiettile, chiaramente debba aumentare il numero di bersagli per aumentare la probabilità e quindi debba arricchire l'uranio. Ma se io faccio uno scuotimento, come ho detto prima, che coinvolge l'intera massa dell'uranio, non ho necessità di arricchirlo, perché si romperanno solo i nuclei di uranio 235, gli altri non si rompono e si fa il botto. Risultato: un pezzo di uranio usato in questa esplosione all'osservatore che arriva a vederlo appare impoverito. Chiaramente appare impoverito perché sono esplosi, si sono rotti solo i nuclei di uranio 213. Allora arrivano gli osservatori sul campo di battaglia e trovano l'uranio impoverito. E che ci fa l'uranio impoverito qui? Allora lo chiedono e i militari dicono: siccome l'uranio è il metallo più pesante che esiste in natura, noi per dare una botta più forte quando spariamo usiamo l'uranio. E siccome, dato che noi facciamo anche le bombe atomiche, ci avanza una quantità di uranio impoverito che non sappiamo che fare, abbiamo usato l'uranio impoverito. Tutto buono. Dato la spiegazione, tutto, sì, l'uranio impoverito. L'uranio non era impoverito prima dell'uso, si è impoverito al momento dell'uso. Capite? Cioè, se voi andate nei magazzini dove sono custodite quest'arma e ne prelevate una, e quello è uranio naturale. Non è uranio impoverito, quello si impoverisce al momento dell'uso. E perché hanno detto questa palla? Perché, dato che poi succede l'esplosione nucleare, succedendo l'esplosione nucleare si genera inevitabilmente della radioattività. Allora, perché che succede? L'energia della fissione nucleare si manifesta in forma di raggi gamma, cioè di radiazioni elettromagnetiche di frequenza elevata. Queste radiazioni colpiscono il materiale circostante, il terreno, la roba circostante, e la rendono radioattiva. Per cui che cosa si è osservata? Fu la prima cosa che venne osservata nel deserto, che nei luoghi dove quest'arma era stata usata si trovava della radioattività.